si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno e buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, staremo insieme fino alle 11 con Si può fare, la rassegna stampa, un'occhiata alle prime pagine dei giornali per chi non avesse già sentito la rassegna stampa dell'ora scorsa, come sempre ogni domenica mattina, e poi le nostre buone notizie, gli approfondimenti, apriremo anche il numero verde, partiremo questa mattina mentre c'è attesa l'Europa e con il fiato sospeso per il voto in Grecia, la Grecia alle prese con la grande crisi, ci domandiamo se per uscire da questa grande lunga crisi non si debba cambiare modo di lavorare, lavorare meno, lavorare tutti, è sì un vecchio slogan ma anche una proposta che ritorna, lavorare meno è possibile grazie alle nuove tecnologie digitali, lavorare tutti è un obiettivo di giustizia ma anche economico, perché se c'è troppa gente che non lavora, c'è poco consumo, la domanda si ferma e il sistema è inchiodato, il sistema economico, come succede proprio adesso da molti anni a questa parte in Europa, ma non solo. E allora ne parleremo con l'autore di un libro che rilancia questa proposta, lavorare meno, lavorare tutti. Questo però dopo il giornale radio delle 9, adesso iniziamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E quindi dicevamo l'attesa, insomma, per il voto in Grecia che è già iniziato questa mattina, i telegiornali stanno già diffondendo le immagini della gente che si reca nei seggi, e poi ancora il dibattito politico sul Quirinale, l'attesa in Italia per il voto del Quirinale. Ricordiamoci che la Grecia va al voto perché non è riuscita a eleggere un presidente della Repubblica, quindi ecco, insomma, questo sia un po' così da, come dire, da monito anche per noi, perché la settimana che si apre domani è la settimana dell'elezione nel Capo dello Stato. E poi insomma ancora il dopo Draghi, il dopo quantitative easing, c'è un'intervista al ministro dell'economia Padoan su Repubblica, ma iniziamo dal Corriere della Sera. Gli italiani e il nuovo presidente, un politico noto all'estero, è il sondaggio di Pagnoncelli che tratteggia diciamo le aspettative per quanto riguarda, come dicevamo, il voto per il Quirinale. Poi l'altro, la fotonotizia riguarda l'ISIS che annuncia un altro decapitato. In un video l'ISIS ha rivendicato la decapitazione dello ostaggio giapponese Haruna Yukawa, il connazionale Goto Yogo potrebbe fare la stessa fine. Poi l'altro titolo del Corriere invece riguarda l'inaugurazione dell'anno giudiziario, l'atto d'accusa dei magistrati da Torino a Palermo, allarme corruzione e mafia, e critica anche alle nuove leggi, il presidente della Corte d'Appello di Milano contro i colleghi siciliani a proposito della trattativa Stato-mafia su Napolitano. Vedremo se leggeremo qualcosa anche su questo. Il Corriere però in prima pagina ha un commento di Aldo Grasso che riguarda niente proprio di meno che Giancarlo Magalli, che come sapete è diventato il candidato virale, cioè con video diffusi in rete, commenti su social network, candidato per il Quirinale, perché tutto nasce alle Quirinarie fatte dal Fatto Quotidiano. Sul suo sito online scrive Aldo Grasso: i nomi cui pensava il Fatto erano altisonanti, da Rodotà a Zagrebeschi, e invece che succede? Arriva inaspettato il nome di Magalli. Scrive però Aldo Grasso: più che l'imprevisto è il previsto che coglie di sorpresa, perché se ti affidi al web devi sapere, devi essere pronto a tutto, anche alla beffa, al gesto situazionista, al mal di pancia. Il web è un posto dove tutti pensano di avere opinioni da esprimere, e perciò l'obbligo di pensare è un optional. Magalli a questo punto non ha alcuna intenzione di ritirarsi, scrive Aldo Grasso, e ha ragione. Potrebbe così avverarsi la profezia di Renato Raschel: se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, che sotto mamma mia con gran piacere ci troverai tuo figlio corazziere. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta, vando a letto, come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. figurati che faccio il corazziere. Ecco, dicono questo è l'originale, Raschel. E insomma, c'è anche questo, c'è anche Giancarlo Magalli che imperversa sul web come candidato per il Quirinale. In realtà il grattacapi per Renzi, per quanto riguarda l'elezione del Quirino del Colle, sembrano arrivare da un altro nome, che è quello di Amato. Questa almeno è la teoria di Repubblica, che scrive: Renzi no al panino su Amato, niente terna, nome secco per il Colle, il giallo di Amato. Che succede? Leggiamo: nella partita del Colle l'unità del Partito Democratico per il segretario del PD è un valore strategico. A Palazzo Chigi rigettano l'accusa di intelligenza con il nemico Berlusconi, anzi il sospetto di Renzi è che una relazione inconfessabile si sia stretta proprio tra i dissidenti del partito, cioè la minoranza PD, e il leader forzista, qua siamo alla fantapolitica secondo me, ma insomma è interessante, con l'obiettivo quale? Di portare proprio Amato al Quirinale. Cioè Amato sappiamo che è il candidato che piace a Berlusconi, Amato sappiamo che è un candidato che andrebbe bene anche ad Alfano, Amato andrebbe bene anche a D'Alema e una parte della sinistra PD, e allora ecco il sospetto che si stia stringendo la morsa attorno a Renzi con Amato candidato diciamo anti Renzi da questo punto di vista. Chissà che invece sotto sotto Renzi non appoggi una strada del genere. Io non credo personalmente in effetti che Amato sia il candidato di Renzi, ma vedremo, perché insomma c'è tempo per arrivarci. Intanto il giallo di Amato. Poi dicevamo, sempre su Repubblica, l'intervista al ministro dell'economia Padoan, che è un po' un commento al dopo Draghi, al dopo BCE, quantitative easing. Ormai insomma abbiamo imparato tutti cosa vuol dire questa espressione. Padoan dice: bravo Mario, ma non basta, ora ci vuole un piano salva banche. Un'altra volta ancora, quante volte dobbiamo salvare queste banche? Questo diciamo il mio personale commento. Ma al di là di questo, dice Padoan, le misure sono molto positive, più di quanto chiunque si aspettasse. L'ammontare dell'iniezione di liquidità è più importante, le modalità sono molto simili a quelle utilizzate dalla Federal Reserve negli Stati Uniti e i limiti sono aperti. Questo è un concetto interessante, sui limiti aperti. Cioè, dice Padoan, si lascia intendere che si potranno continuare gli interventi della BCE, questo acquisto di titoli di Stato sul mercato, fino a quando? Fino a quando il risultato non sarà raggiunto. E quindi insomma un vero bazooka, davvero, come è stato detto con questa espressione a proposito dell'intervento della BCE. Poi c'è il tema della condivisione, cioè dei rischi, no? Il fatto che i rischi di questi acquisti di titoli di Stato per l'80% ricadranno sulle banche nazionali, solo per il 20% ricadranno su chi fa questi acquisti, cioè sulla BCE. Quindi una condivisione bassa del rischio, che è invece che è voluta dalla Germania e che non era invece voluta da altri paesi, tra cui anche l'Italia. Infatti Padoan dice: sì, la condivisione è limitata, anche se c'è. In Europa stiamo vivendo una fase di transizione, non tutti sono pronti ad accettare una piena condivisione. Poi i conti di quanto ci fa guadagnare questa quantitative easing. La domanda è: la Banca d'Italia comprerà BTP circa il 6% del PIL, il Tesoro pagherà gli interessi a Banca Italia, insomma è un affare complicato. In sostanza la domanda è questa: si libera uno spazio di bilancio probabile di circa 6 miliardi, come lo userete? Cioè da questa manovra insomma i conti pubblici italiani dovrebbero tirare il fiato per circa 6 miliardi, però Padoan risponde: confesso che non ho ancora fatto i conti e non posso confermare i numeri, vedremo i dettagli. Cioè il ministro dell'economia non fa i conti, non ha conti, non ha cifre, non si sbilancia su questo possibile avanzo di bilancio di 6 miliardi, tutti i giornali hanno fatto i conti, tutti gli economisti hanno detto che ci sarà questo surplus, però il ministro non conferma. A proposito del voto in Grecia, andiamo sulla Stampa, che scrive: tra gli elettori di Tsipras abbiamo bisogno di sperare, oggi la Grecia va al voto pensando che presto finirà il rigore, molti lo paragonano a Papandreou che portò il PASOK, il Partito Socialista, al potere. Syriza che è al 34,7% nei sondaggi, 3, 4, 5, 6 punti sopra l'avversario di Nuova Democrazia. C'è l'intervista al premio Nobel per l'economia, il britannico cipriota Pissarides, che dice: il paese riparte solo se si taglia il debito. Syriza non è una minaccia per l'Unione Europea. In sostanza, in questa intervista sulla stampa, questo premio Nobel per l'economia, che è stato anche associato, diciamo, a una area politica anti-euro, anche se lui non dice di non essere anti-euro, ma insomma ha questo tipo di posizioni sul fatto che si debba rinegoziare il debito greco. Scrive Pissarides: penso che la BCE e l'Eurozona dovrebbero riconoscere che il 175% del debito è insostenibile, che potrebbe essere tagliato per esempio al 120%, altrimenti la Grecia non ripartirà. Parola non di Tsipras ma di un premio Nobel dell'economia. Il Sole 24 Ore la vede così: Europa e mercati al test di Atene, Tsipras punta ad allargare le scadenze del debito ma rassicura, no ad atti unilaterali. Infatti scrive Vittorio D'Aroldo, inviato ad Atene, a Tsipras, che parla già da primo ministro in pectore, negli ultimi giorni ha abbassato i toni delle richieste. C'è uno Tsipras, sì, favorito, ma anche un po' più moderato negli ultimi giorni per tranquillizzare tutti. Insomma, Tsipras che ha affermato che non ci saranno decisioni unilaterali sul debito, affermazione fatta, secondo Vittorio D'Arold, ma non solo secondo lui naturalmente, per rassicurare i mercati. Ancora qualche titolo al volo di... su altre notizie, sugli altri giornali. Libero per esempio scrive così, a proposito dell'allarme sicurezza e dei rischi per il terrorismo: Malpensa via libera ai terroristi, mentre Tripoli ammette che i tagliagole della Libia controllano il traffico dei clandestini verso l'Italia, si scopre un'altra clamorosa falla nel sistema di sicurezza. Mancano poliziotti all'aeroporto, chi dovrebbe essere arrestato viene solo denunciato e poi si dilegua. Un'altra notizia veloce ce la dà il Fatto Quotidiano, più che altro diciamo è una specie di denuncia, che è questa: quel regalo a papà Boschi e anche il pacco dono a Mediaset. La riforma delle banche popolari fa guadagnare soprattutto quella dell'Etruria, la Banca Popolare dell'Etruria, il cui vicepresidente è il padre della ministra Boschi, che su questo provvedimento non si è astenuta, come forse avrebbe dovuto, avendo il padre coinvolto in quanto vicepresidente di una banca su questa riforma delle banche popolari. Questo scrive il Fatto, che poi aggiunge, a proposito dell'eterno conflitto di interessi di Berlusconi: un super favore al Caimano, rinviato di 18 mesi il nuovo digitale terrestre, Silvio salva canali e milioni. Ci fermiamo un attimo per il traffico e torniamo tra poco. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si Può Fare e di nuovo sui giornali di oggi. Chiudiamo questa la notizia riportata dal Fatto Quotidiano, che in prima pagina scrive: Merchant Bank, Palazzo Chigi, quel regalo abbiamo detto a papà Boschi e anche il pacco dono a Mediaset. Da un lato la ministra per le riforme Mariana Boschi, che non si astiene sul provvedimento di riforma delle banche popolari, che di cui beneficerebbe anche il padre, vicepresidente della Banca Popolare dell'Etruria, mentre la Consob indaga, scrive il Fatto, sulle speculazioni londinesi fatte a margine del decreto di governo sugli assetti societari degli istituti di credito. D'altra parte, l'altra notizia, dicevamo, è questa: il digitale può attendere, Renzi fa un regalo a Mediaset, il mille proroghe rinvia il DVB T2 e il biscione può tenersi tutte le frequenze. Palazzo Chigi ha rinviato di un anno e mezzo mezzo l'immissione sul mercato di televisori che ricevono trasmissioni in tecnologia DVB-T2, il digitale terrestre di ultima generazione. Ha detto sia una proposta del ministro Guidi, poi nessuno se n'è accorto e pazienza se una legge di Monti, che recepiva le indicazioni della conferenza di Ginevra, aveva fissato la partenza per gennaio 2015 di queste nuove tecnologie, questo rinvio che, secondo il Fatto Quotidiano, favorirebbe di non so quanti milioni di euro, diciamo, no? Di introiti possibili, Mediaset, l'azienda di Silvio Berlusconi. Ma adesso è il momento di andare sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, e ritroviamo Armando Massalenti. Buongiorno Armando. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, carissimo Armando, oggi da cosa partiamo per così fare il nostro consueto viaggio nelle grandi domande, quelle che io dico sempre scherzando, ma non troppo, che ci aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando? Ma dunque, su alcune cose c'è poco da scherzare in questo numero, perché buona parte del numero, insomma diciamo quattro pagine, sono in modi diversi dedicate al giorno della memoria, che sarà appunto fra due giorni, e abbiamo una copertina molto interessante di Domenico Scarpa, che è uno dei massimi conoscitori di Primo Levi, che ci presenta due elementi completamente inediti di Primo Levi, che sono uno che testimonia proprio la memoria esercitata anche nel senso dell'esercizio proprio, della mnemotecnica, diciamo quasi, la ricostruzione che fa Primo Levi dell'elenco, addirittura lo fa nel 71, dei nomi di coloro che erano stati i suoi compagni di prigionia ad Auschwitz. Quindi un esercizio veramente incredibile, ne indovinano diciamo il 90%, no, l'80%, credo, chiedo scusa. E poi c'è un'altra cosa molto bella, che è quello che di lui, chimico, che come sapete è assolutamente molto abile nel suo mestiere, che era quello di chimico, e che fa le analisi per primo del veleno usato nelle camere a gas. Questo non è l'unico articolo peraltro dedicato a Primo Levi in questo numero, ce n'è anche uno altrettanto bello di Sergio Luzzatto, che analizza proprio dal punto di vista della grande capacità antropologica di Primo Levi di capire che cosa era successo in quei momenti assolutamente drammatici. Tra l'altro, settimana scorsa, voglio ricordare l'appuntamento che avevamo lanciato settimana scorsa, all'Auditorium di Roma c'è un concerto con anche Dute Lemper, per esempio, dei grandi esecutori di musiche composte appunto nei lager, che sono state ricostruite in maniera molto puntuale e daranno luogo appunto a questo concerto, anzi, che sarà domani sera e poi dopodomani a Montecitorio. E a proposito di spettacoli, sempre a proposito di memoria, vorrei anche ricordare che Renato Palazzi ha visto in anticipo uno spettacolo che sarà al Filo Drammatici sempre martedì, tratto dal romanzo, questo spettacolo dal romanzo di Augusto Bianchi Rizzi, che purtroppo è mancato alcuni mesi fa, Albanaia, e il ricordo. Questo romanzo era stato ricostruito sui diari del padre, che era un fascista molto volenteroso, che ci credeva molto, che aveva fatto la campagna in Albania, e questo è un diario molto toccante che è trasformato in uno spettacolo di cui appunto Palazzi ci dà un'anticipazione, e siamo tutti assolutamente invitati ad andare a vederlo. Ha sempre, a proposito di memoria, esattamente un anno fa moriva Claudio Abbado. Quirino Principe ne fa un articolo, un ricordo, a partire da un libro che è stato pubblicato da Guanda, Giuseppina Manin, Nel giardino della musica, Claudio Abbado, la vita, l'arte e l'impegno. E Quirino Principe, da grande critico d'arte qual è, fa un affresco non solo di Abbado, dell'importanza di Abbado nella nostra cultura, ma anche dell'importanza di un rito, a sua volta, di un rito, cioè quello dell'eroica che è stata eseguita da Daniel Barenboim l'anno scorso, esattamente un anno fa, il 27 gennaio, alla Scala. E questo diventa per Quirino Principe come una sorta di un grande atto di civiltà, una sorta di rito laico lui dice assolutamente un rito che proprio per la sua laicità ci riporta a quella idea di polis, che poi era l'idea anche di, coltivata da Abbado, a un'idea di polis molto più autentica rispetto a molti altri riti cui siamo abituati, anche allo svuotamento, dice praticamente, di molti riti religiosi. Che altro segnalare? Salvatore Settis, che ci parla della qualità dell'Aoconte, la famosa statua, quella con tutti i serpenti intorno, che è stata centralissima in tutta la storia dell'arte occidentale. Poi ecco, nel 2014 è stato l'anno di un libro importante di Piketty, no? Il capitale del XXI secolo. Gabriele Pedulla fa un'operazione in un articolo che è sì di economia, di cultura economica, ma fa vedere quanta letteratura c'è in questo ponderoso volume di 960 pagine, che nonostante appunto la mole è diventato un grande bestseller internazionale. Poi a me piace sempre ricordare anche questo di Armando Massarenti, Istruzioni per rendersi felici, come il pensiero antico salverà gli spiriti moderni di Guanda, perché molto molto molto si può fare. E non so, Armando, se in questi ultimi 30 secondi ci vuoi lasciare con una di queste brevi istruzioni o se sono troppo lunghe e filosofiche per essere riassunte. Guarda, io questo esercizio che ho fatto nel libro lo continuo in realtà poi certo. Tutte le settimane un po' con la mia rubrica. Mi verrebbe da citare, beh, le istruzioni lì sono molto adatte, devo dire, ai temi che vi ho detto oggi, perché le mie istruzioni sono un po' delle istruzioni che partono da una visione molto disincantata della vita e anche, se vuoi, delle tragedie umane, perché i veri filosofi di riferimento, io parlo soprattutto di filosofi antichi nel mio libro, ma due filosofi moderni sono Schopenhauer e Leopardi, che hanno parlato della felicità proprio come facevano gli antichi, cioè proprio a partire da una visione tutto sommato abbastanza notevolmente realistica, cioè tutta la felicità che noi possiamo avere ce la possiamo ricavare se siamo abbastanza realisti, se siamo un po' come Primo Levi, cioè, abbassiamo un pochino l'asticella e vedrete che esatto. Poi tutto quello che abbiamo di fronte sarà comunque esatto. Migliore. Grazie Armando. Posso dire che in questo numero c'è un'intervista sì. A Marta Nussbaum, che è appunto la massima esperta di filosofia antica, che ci parla della buona scuola, cioè bene, dobbiamo salutarci però. Grazie Armando, ci rivediamo domenica prossima, abbiamo il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo con Si può fare. Ciao, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Ben ritrovati. Buona domenica a te Alessio. Anche a te Carlo. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, cominciate subito a prenotare i vostri interventi, per commentare, insomma, un po' di notizie le abbiamo date in rassegna stampa, adesso cominciamo. Do subito anche il numero degli sms, sì. Giusto? Perché ci criticano sempre che non diamo il numero degli sms. 349-238-6666. Adesso, insomma, oggi con l'attesa per il voto in Grecia, per insomma, l'uscita dalla crisi della Grecia, ci domandiamo se per uscire dalla crisi economica e crisi occupazionale, non si debba cominciare, Carlo, a pensare in modo nuovo al lavoro. Lavorare meno, lavorare tutti. Un vecchio slogan. Vecchio ma sempre sul pezzo, direi. Pensa che l'autore del libro con cui parleremo dice che l'orario di lavoro non cambia da quasi un secolo. Cioè c'è stato un periodo nel quale si facevano tante conquiste sul lavoro, si andava sempre avanti, e invece le famose 8 ore sono ferme lì da un secolo. Dice lui, è arrivato il momento di farle diminuire un po'. Sì, o di cambiare forse. Di cambiare le carte in tavola. Trovare un'altra strada. Partiremo da qua, 800 24 00 24. Anzi, poi partiremo da un'altra storia che riguarda il mondo del lavoro, sempre più dipendenti di fabbriche che chiudono per via della crisi, si riorganizzano attraverso delle delle cooperative, così per dividere il rischio imprenditoriale non più su una sola persona, l'imprenditore, ma su tutti i dipendenti, tutta la cooperativa. Un modello che, anche questo, chissà se stia facendo scuola. 800 24 00 24, questo tra poco. Sì, signore. No, niente, ti sto guardando. Ci guardiamo. Io oggi devo dire una cosa piccolissima. Avevi una cosa, so che ti sta a cuore. Sì. No, sì, mi sta a cuore perché ho scoperto che la password che io uso è la password più semplice del mondo. È uscito, hanno raccolto i dati su 3,3 milioni di password. Pensaci bene prima password. Di dirlo, perché sì, stai rivelando la tua password. Sì, la sto rivelando. È 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma l'ho già modificata comunque. Però quello che non sapevo è che intanto che fosse così usuale usare delle password molto semplici. Esiste uno studio con dei dati raccolti da questo Splash Data, che è un provider per applicazioni di sicurezza, che ci allerta tutti dicendo usate delle password un po' migliori. Non sapevo che, diciamo, nei primi 10 posti c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi c'è quella molto più difficile che è 1, 2, 3, 4, 5. Poi c'è 1, 2, 3, 4. E poi c'è anche chi arriva fino al 9. La cosa che mi ha fatto moltissimo ridere è che al secondo posto, secondo te cosa c'è adesso al secondo posto di password più usata? Perché ci puoi arrivare. No, io lo so perché la notizia l'ho vista. È password. È pazzesco, ma è così. E la trovo bellissimo. Poi ovviamente ci sono tutte. Posso rivelare che tu usavi la prima e io usavo la seconda. Ah, vedi, perfetto. Siamo in piena linea, siamo così banali, Carlo. E diamo anche i consigli, diciamo. E no, mi spiace molto, dopo 4 anni dalla graduatoria sì. È uscita una password che c'è sempre stata, invece che non c'è più, che è I love you, che la trovo molto più bella. È romantica, meglio di password sicuramente. Assolutamente, anche perché è bello alla mattina che uno alla fin fine molto spesso inizia che deve infilare un sacco di password nell'account del proprio computer, nell'account del proprio social. Infatti io avevo scelto a lungo una password che era, siccome bisogna avere sia numeri sia parole, non mi veniva in mente nessuna password possibile e alla fine ho scelto sei una cacca. Quindi sei scritto come numero e il resto a parole. Solo che iniziare tutte le mattine, diciamo, dicendosi sei una cacca, non è bello. Questa cosa non qua è bello. No, esatto, diciamo, era il mio super io che cercava di schiacciarmi sulle mie responsabilità e sul mio senso di colpa. Comunque danno un po' di consigli, ovvero ogni account deve avere una password diversa. Io questo per esempio non lo sapevo, sì. Posso dire che praticamente tutti i miei account hanno la stessa password. È necessario bandire parole e numeri che possono richiamare la propria data di nascita. Evitare le parolacce, questo non so se è un consiglio che viene dato, se è un consiglio morale o un consiglio di sicurezza. E poi le marche di automobili e le squadre di calcio. Evitare le password che contengono solo numeri. Insomma, a questo punto so che tu hai un desiderio, insomma, che gli ascoltatori ti aiutino anche in qualche modo a trovare una password una per me. Password. Certo, poi io le metterò un po' insieme, le modificherò oppure mi sposerò con l'ascoltatore o l'ascoltatrice che mi dà la password perfetta, di modo che poi dopo sappiamo le stesse cose. C'è un'altra piccola notizia di questa settimana che è un non si può fare che mi ha incuriosito. Allora, sapete che dopo la lunga reggenza di Mastra Pasqua, presidente dell'INPS, colui che accumulava decine e decine di cariche, recentemente, dopo il commissariamento, il governo ha nominato Tito Boeri, un economista della Voce.info, un professore, insomma, un docente universitario, un accademico che scrive anche sui giornali. Di chiara fama, e che era stato accolto abbastanza positivamente nell'area, diciamo così, di centrosinistra, da questo punto di vista, come è naturale che sia con un governo che è di quell'area. Ecco, adesso però è venuto fuori che Tito Boeri non ha i requisiti, non avrebbe i requisiti per essere nominato, prima di tutto non è un politico, e quindi già questo aveva un po', diciamo, preoccupato i politici. Ma cosa vuol dire non essere un politico, tra l'altro? Vuol dire avere una tessera in tasca o vuol dire aver avuto una carica politica? Aspetta, perché non ha i requisiti, perché si dice che non ha esperienze manageriali, ma a dire che non ha i requisiti ci sono alcuni parlamentari che hanno firmato questo documento, tra cui Cesare Damiano, che è stato ministro avendo solo il diploma, senza essere laureato. Questo, diciamo, è un pensiero che ho fatto io, e anche Renata Polverini, che anche lei è ex sindacalista con un diploma, è stata presidente della Regione Lazio. Allora mi domando, ma quali sono i requisiti oggi in Italia per essere ministro o per dirigere l'INPS? E soprattutto quali sono i requisiti in Italia per poter dare, diciamo, una propria opinione così tranchant su un'altra persona? Razzi cosa dice? Razzi ha detto la sua su questa nomina? Esatto. Perché aspettiamo, direi, il commento di Razzi, per ovviamente seguirlo. 800 24 00 24. Va bene, chiudiamo qua col gioco, diamo il primo indizio. Noi cerchiamo sempre un personaggio della settimana, cari ascoltatore. Oggi è domenica, quindi se volete vincere i biglietti e il prestigioso catalogo della mostra di Chagall a Milano, dovete dirci chi è il personaggio della settimana. Il primo indizio è che il nostro personaggio sa chi è il prossimo presidente della Repubblica. Eh beh, niente male. 800 24 00 24. Adesso vai. E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led, voglio ballare come Michael nel video di Beth, stare leggeri come due farfalle appena venute fuori dal bosco. Solo sulla scena sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai, possiamo essere eroi. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassie dove c'è vita, come in un sabato. E questo è il nuovo singolo di Jovanotti, che fa parte del suo prossimo disco in uscita. Una canzone dove, nella quale si parla anche di una persona che non ha più lavoro e che quindi aspetta il lunedì in maniera diversa rispetto a come accade per tutti noi, che poi noi esclusi, Carlo, io e te, perché certo, il nostro weekend invece in realtà comincia adesso, no? Come ci diciamo sempre scherzando. Esatto, no, non adesso, alle 11 inizia. Alle 11, sì, alla fine del programma. Però ricordiamo tutti che è domenica, perché secondo me sono adesso mette la radio, sente sabato, e dice porca miseria, è sabato. Questa bella canzone di Jovanotti per introdurre l'argomento lavoro, e vogliamo parlare con chi ha avuto il coraggio e sta portando avanti un'idea nuova di lavoro. Si tratta degli ex dipendenti del Gatto di Camerano, in provincia di Ancona, un'azienda di mobili che ha chiuso, e loro adesso hanno fondato una cooperativa Mob Italy per portare avanti questa attività. Noi ci stanno provando, noi abbiamo convocato Federico Frontalini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Presidente, buongiorno, della cooperativa Mob Italy. Io ho fatto un cappello su quello che è accaduto. Quanti erano i dipendenti? Intanto iniziamo da questo, dell'azienda Gatto che ha chiuso credo all'inizio di novembre. Sì, noi eravamo 112 dipendenti. E cosa producevate? Produciamo cuocine componibili, il nostro mercato di riferimento era sia Italia che estero, quindi un'azienda da oltre 50 anni presente sul mercato con un importante know-how. In una zona, tra l'altro siamo nelle Marche, che anche presenta diversi distretti dove il Made in Italy, anche nel campo delle cucine, insomma, è molto presente. Sì, molto importante sia nel Pesarese che nella zona di Macerata, ma anche qui nel distretto di Camerano Ancona, dove ci sono diverse realtà. E la crisi, come è arrivata la crisi dell'azienda? Come si è presentata? Crisi di mercato, pochi sbocchi di mercato, concorrenza? Sì, purtroppo negli ultimi anni, oltre che la crisi vera e propria, quella che conosciamo, c'è stata anche una crisi di mercato e finanziaria, e sono due anni che praticamente noi siamo in regime di cassa integrazione, quindi stipendi ridotti eccetera. Poi in ultimo siamo stati all'incirca 7 mesi senza stipendi fino ai primi di novembre, in cui c'è stato prospettato il licenziamento. È stato un po' questo. questa la nostra storia ultima. Immagino, insomma, ovviamente lo sgomento iniziale, anche se è stata un'avvertenza in qualche modo lunga, una vicenda che vi ha portato appunto alla chiusura di questa azienda, però voi, alcuni di voi, non vi siete persi d'animo, e cosa avete pensato di fare? Sì, infatti, diciamo, nel punto più difficile, insomma, di tutta l'avvertenza, alcuni di noi ci ha avuto il coraggio e la voglia di reagire. Praticamente abbiamo reagito cercando di costituirci in cooperativa, proprio per non disperdere il know-how acquisito in anni e soprattutto per non disperdere l'occupazione. Quindi ci sentiamo molto legati qui al territorio e ci sembrava un peccato disperdere, insomma, questo know-how. E in quanti avete preso questa decisione? Quanti sono i membri della cooperativa adesso? Attualmente siamo in 16. Proprio nel giorno in cui siamo stati licenziati, comunque, questa idea è stata proposta un po' a tutti, sì, tutti i nostri ex colleghi. Però ovviamente non tutti hanno preso questa iniziativa subito così, perché probabilmente è molto difficile passare da un dipendente ad essere, certo, imprenditore di se stesso. Certo, è proprio quella la questione. Quindi, è proprio difficile. È, io ho detto che, insomma, il rischio di impresa che si trasferisce da una sola persona, dall'imprenditore o comunque dal management, a gli stessi lavoratori, gli stessi dipendenti. Quindi è una cosa che può anche spaventare, e non tutti forse pensano a questo come a un'ancora di salvezza. Cosa che invece avete pensato voi positivamente. Perché avete pensato di fare questa cooperativa come scommessa per il vostro futuro lavorativo? Sì, proprio abbiamo preso questa scommessa per cercare di essere noi stessi fautori del nostro destino, quindi essere noi i primi a gestire quello che potrebbe essere il nostro futuro. E, insomma, è una scommessa, è molto, molto difficile, però ci stiamo, insomma, dedicando molte risorse. Ma mi sembra molto bello il fatto che quindi voi avete chiesto a tutti, cioè una cosa che vi siete chiesti fra tutti se farlo. Non è che voi siete un gruppo di 16 amici, diciamo, in qualche modo, o di 16 colleghi che vi siete guardati in faccia e vi siete detti facciamo una cosa noi. Voi avete proposto anche a tutti i vostri colleghi? Sì, no, noi ci siamo trovati proprio nel piazzale dello stabile, proprio il giorno del licenziamento, in cui abbiamo informato tutti i nostri colleghi dell'iniziativa. Proprio perché volevamo coinvolgere più gente possibile. Poi, come abbiamo detto, questo calo di numero di adesioni è stata una cosa fisiologica, perché tra chi non se la sentiva, chi non voleva, chi magari ha avuto bisogno di metabolizzare, c'è stata questa diminuzione di adesioni. Certo, ma avete messo una quota iniziale per fare questo... Sì. Perché forse è quello che ha frenato, chiedo qualcuno, perché mi chiedo, uno che sta perdendo il lavoro, giustamente forse non vuole fare l'imprenditore, però non ha il lavoro, quindi come mai decide di non mettersi con voi, diciamo? Una cosa è, sì, effettivamente il rischiare, perché intanto è un rischio, l'imprenditore va da sé che prende un rischio di attività, quindi può andare bene e può andare, certo, male. Ma avete messo molti soldi inizialmente voi? No, inizialmente abbiamo messo attualmente una quota base, proprio per dare il via alla cooperativa. Ma diciamo, invece, dal punto di vista del mercato nel quale pensate di operare, delle attrezzature necessarie, della sede di questa cooperativa, a che punto siete nella ricostruzione di questa attività imprenditoriale? Allora, noi adesso ci siamo dati come termine metà febbraio, inizio di marzo. In questo arco di tempo dobbiamo mettere in piedi, la sfida nostra è di mettere in piedi un centro di produzione, sempre qui nel distretto di Camerano Ancona, che possa mettere in piedi un processo produttivo molto flessibile in termini di produzione, ma anche di tipologia di prodotto. Parla già come un imprenditore, sta già facendo la strategia in termini molto flessibili, tac tac. Ma cosa volete? E lavora anche la domenica, infatti noi la intervistiamo la domenica per quello, per farle capire che appunto il lavoro dell'imprenditore, che non esiste weekend. Purtroppo è vero. Cosa pensate di produrre rispetto a quello che produceva prima la Gatto? Mobitaly cosa produrrà? Allora, ovviamente noi continueremo a produrre quello che sappiamo far meglio, quindi cucine componibili, ma okay, nello stesso tempo, parallelamente, vorremmo fare un nostro marchio proprio commerciale, proprio Mobitaly, che produrrà bagni, living, armagliature e insomma altri componenti d'arredo. Infatti MOB proprio perché vorremmo fare proprio l'arredamento a 360 gradi. Oltre a questo avremo un outlet in azienda che permetterà insomma di accogliere i nostri clienti vendendo anche direttamente, ma fornendo ai nostri clienti proprio un servizio professionale acquisito in anni e anni di esperienza nel mondo dell'arredamento, nella progettazione e anche nella realizzazione di componenti su misura. Ma lavorerete voi 16 insieme oppure ci saranno anche altre persone? Cioè avrete dei dipendenti per intenderci? No, diciamo la cooperativa come l'abbiamo concepita noi è una cooperativa di produzione e lavoro. Quindi sarete voi? Solo voi. Sì, ma io non ho capito un'altra cosa, la sede ce l'avete? Avete già individuato una sede o no? Un capannone, uno spazio e dei macchinari? Sì, attualmente l'abbiamo individuata, stiamo cercando di mettere in piedi un po' il sito produttivo. È ovvio che adesso stiamo cercando di formalizzare un po' il tutto. Ma la Gatto però, vi sta aiutando in tutto questo? La Gatto SPA, l'ex azienda della quale facevate parte? Diciamo che loro stanno affrontando la loro strada, che certo, è insomma un po' difficile. No, magari hanno dei macchinari che vi prestano, che vi regalano addirittura, o che vi affittano, che vi vendono. No, questo non sarà possibile, insomma. Non è ancora stato possibile. Era accaduto per esempio alle porte di Milano con un'altra azienda che aveva chiuso, faceva componenti per auto, la Maflov. Era nata la cooperativa di Maflov, aveva potuto utilizzare alcune, aveva quasi rilevato pezzi. Alcuni pezzi eccetera eccetera. Anche con loro sarà da fare il punto su come sta andando quell'iniziativa. Beh, insomma, Federico, noi vi facciamo in bocca al lupo, soprattutto perché è proprio l'inizio della vostra nuova avventura, quindi è chiaro che dovete ancora costruirvela questa strada, però il primo passo lo avete fatto e ancora in bocca al lupo. Se avete bisogno di, così dire, di un po' di incoraggiamento o magari domani un po' di pubblicità, noi ci siamo. E complimenti. Grazie mille. Un saluto. Grazie e un abbraccio anche a tutti gli altri. Crepi e buona domenica a tutti. Grazie. Buona Federico domenica. Frontalini, presidente della cooperativa Mobitali nella provincia di Ancona. Siamo a Camerano, speriamo che ce la facciano, speriamo di sentirlo la prossima volta di ottimo umore. Esatto, loro come tutti gli altri che stanno affrontando crisi aziendale e tentativi di ripartenza come questa. Abbiamo un ascoltatore che ci chiama da Napoli. Ciro, prima della pausa, Peter e Bescapè in regia, possiamo farlo o ci picchi? Perché siamo un po' lunghi, No, dai. Non vi picchiano, dai. Vai, Ciro, va bene. Buongiorno, Ciro. Complimenti, il solito testo, complimenti per la trasmissione, va, che fa ridere, però purtroppo è così. Va bene, a noi ci fa piacere. Per fortuna, grazie, Ciro. Fa piacere pure a me. Posso dire una cosa prima di dire quello che mi avete... Potreste fare una trasmissione contro la petmania? La? Cos'è la petmania? Questo amore per i cani. Petmania, pensavo all'amore per i petti. Ma non è una cosa brutta, petmania. Cioè, no, l'amore per i cani. Non è una brutta parola. È una malattia. Solo perché una scuola per i guidatori dei cani. Ecco, c'è una cosa. Ma come i guidatori dei cani? Cioè, quelli che li portano a spasso. Ah, perché li portano a spasso male, col guinzaglio troppo lungo. Ecco, facciamolo una cosetta così. Vabbè. Potrebbe essere interessante. Va bene. Ma io lo ringrazio, ma adesso mi dica tutto. No, ha chiamato lei, Ciro, cosa deve dire? Io ho risposto alla domanda che è stata fatta. Qual è la domanda? Il personaggio della settimana. Quel personaggio così simpatico che poi è alto quanto me. Ci dica. Ecco, quindi, Magalli. Magalli come personaggio della settimana. Qual è la notizia legata a Magalli? La notizia è sempre, perché qualunque volta viene per televisione trascina milioni di gente. Vabbè, la notizia dai è che è stato votata alle Quirinale, esatto. Fatto Quotidiano come futuro Presidente della Repubblica, e lui non si ritira tra l'altro dalla corsa per il Quirinale, però Ciro non era lui il personaggio. Non era lui. Grazie. Il nostro personaggio sa chi è il prossimo Presidente della Repubblica e questo è il primo indizio. 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nel corso della storia questa civiltà ha imparato a misurare il tempo e a farne un bel tracciato. Clessidre e meridiane no, non posso sopportare. Nessuno può fermarmi se voglio rallentare. l'agenzia vi ben armati, sezionano il cadavere di tutti i miei minuti, mandati disposizioni a schermi e tabelloni, comandano tutti quanti per me, sono dei quadranti, tutti i meccanismi mi hanno gliato, ma io sono ritardato, l'orologio già smontato per poter vedere le lancette, poi le sfere, le rotelle, il bilanciere, rotolare e poi cadere senza potere. Rallentano i rintocchi, non esiste punto orario, perché le mie lancette ora corrono al contrario. Cantavi già vittoria per avermi sabotato, mi sono trasformato in un ordigno carico innescato che ora posso far saltare nel frangente. Con questo l'orologio parliamo dell'orario di lavoro, come del anticipato, tempo, certo. Del tempo di lavoro, e ne parliamo con Marco Caviolatti, che è autore del libro E la borsa e la vita, distribuire e ridurre il tempo di lavoro, orizzonte di giustizia e benessere. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno, buona buongiorno. Domenica. Grazie. Allora, tanto. Insomma, un libro importante che ci richiama a questo tema, c'era il vecchio slogan lavorare meno, lavorare tutti, ma sono diverse le voci che stanno dicendo che questa potrebbe essere una ricetta per tirarci fuori in qualche modo dalla crisi, che è crisi di lavoro, crisi di occupazione, crisi della domanda. C'è troppa gente che lavora poco, che non consuma, e quindi il sistema economico si è interrotto, oltre che, diciamo, anche ragioni etiche di giustizia, no? Per quanto riguarda il tema del lavoro. Partiamo, Marco, dall'analisi di, appunto, di questa crisi. È vero che c'è molta disoccupazione, d'altra parte è vero che a chi lavora viene chiesto di lavorare sempre di più, ed è questo uno dei paradossi anche di questa crisi, uno dei punti di partenza anche del tuo libro. Sì. E la cosa impressionante è che se noi guardiamo i dati di tutti i paesi avanzati, non solo europei, la riduzione dell'orario di lavoro è un dato di fatto. Cos'è che si riduce? L'orario medio, e quindi è la nota media del pollo, insomma. Poi questa riduzione media si traduce in una forbice che si allarga sempre di più tra alcuni che devono lavorare di più, per l'appunto, quindi aumentano gli orari contrattuali, aumentano gli straordinari obbligatori, si tagliano pause, riposi, ci si accanisce in modo particolare anche rispetto all'assenteismo in tutte le sue forme, anche quelle legittime e anzi meritevoli di sostegno, e dall'altra parte aumenta invece la platea di disoccupazione o di sottoccupazione, quindi persone che lavorano poco perché non trovano di meglio. In Italia in giro di pochi anni sono raddoppiati i part-time, ma sono in gran parte, per i due terzi, part-time involontari, quindi gente che vorrebbe, avrebbe bisogno di lavorare di più, ma è costretta a lavorare poco. E quindi è evidente che questa dinamica, che ripeto non è nata con la crisi, parte da ormai decenni fa e riguarda tutti i paesi avanzati, chi più chi meno, e è una dinamica che in qualche misura va invertita. Ecco, forse ha creato la crisi, quindi, invece che sia essere figlia della crisi? Ecco, certo, questa è un'analisi interessante, anche perché tra l'altro ha degli effetti su quella distribuzione dei redditi che porta da una parte a un crollo della domanda e dall'altra alla concentrazione della ricchezza in pochi soggetti sempre più ricchi che alimentano quel sistema di finanziarizzazione dell'economia, per cui questi grossi profitti vengono investiti in attività finanziarie e non più in attività produttive. Marco, se ho capito bene, nel tuo libro tu sostieni, ma in parte lo stavi già dicendo prima, che in qualche modo l'orario di lavoro è già diminuito, nel senso che è vero che l'orario è fermo a 8 ore da quasi un secolo, però siccome c'è questa disoccupazione, almeno nei paesi occidentali, ma non solo, diciamo crescente, di fatto per la media del pollo, no? Tra chi lavora e chi non lavora, le ore di lavoro sono diminuite. Perché a questo punto la ricetta lavorare meno, lavorare tutti sarebbe invece una ricetta per uscire da questa crisi, una soluzione per uscire dalla crisi che stiamo vivendo da anni ormai? Sì, ma Allora, una distribuzione degli orari può avere effetti diversi. Intanto una distribuzione dell'occupazione, e come dicevate voi, questo permette anche di allargare e di rendere più equilibrata la domanda e quindi di innestare, insomma, un percorso virtuale tra economia produttiva, non finanziaria, e lavoro. E poi c'è anche una questione che tocca molto da vicino l'Italia. L'impresa italiana è un'impresa che si sta impoverendo nei confronti di altre aree del mondo, perché è un'impresa che fatica a fare innovazione, a migliorare i processi produttivi, a cambiare i propri investimenti concentrandoli su settori ad alto potenziale, eccetera eccetera. Anche qui, tra i paesi occidentali, è il paese in cui la produttività del lavoro è cresciuta di meno dal 2000 ad oggi, anzi è praticamente ferma. Ora, una disponibilità di manodopera a basso costo su cui da spremere, ecco, la disponibilità di tanti limoni da spremere con tante ore di lavoro poco retribuite è una situazione che non incentiva l'innovazione, perché ti permette almeno a breve termine di trarre comunque profitto dalla riduzione dei costi del lavoro. Allora, anche qui, un ridefinire i modelli organizzativi sarebbe anche da stimolo all'impresa per andare a fare investimenti produttivi per migliorare i propri processi e i propri prodotti. Un dato sì, tecnico, ma proprio velocissimo, ma di estremo interesse, sull'esperienza delle 35 ore in Francia, con luci e ombre, per carità, però la cosa interessante è che dal 98 al 2002, cioè gli anni in cui quell'esperienza è stata sostenuta e lanciata, gli investimenti produttivi delle imprese francesi hanno raggiunto dei picchi che non avevano toccato prima e non hanno più toccato dopo. E perché poi invece è stata abbandonata questa strada? Ma è stata sostanzialmente depotenziata, perché poi appunto si è perseguito un po' il modello della flessibilità, della riduzione della componente lavoro a tutto centrale, tutta giocata sul contenimento dei costi, e quindi da questo punto di vista è chiaro che conviene ad esempio incentivare gli straordinari, quindi concentrare sì, il poco lavoro piuttosto che invece esatto dividerlo tra più persone con orari più bassi. Facciamo una piccola pausa per il traffico, Marco Calviolatti, che è con noi l'autore del libro E la borsa e la vita. E poi voglio chiedere anche questo, tornando proprio alla politica, se ci sono oggi 2015, ci sono le elezioni in Grecia, Tsipras candidato di sinistra, primo ministro in pectore, ci sono partiti in Europa che hanno nel loro programma elettorale questa cosa, cioè ridurre l'orario di lavoro. Dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, anche per commentare questa ricetta di cui si parla in questo libro, ma che è una ricetta che insomma è sul tappeto delle proposte politiche. Il libro di Marco Calviolatti, tra l'altro, ha la prefazione di Stefano Fassina, che è insomma esponente del PD e quasi il responsabile economico, forse era, non so se è più adesso, del PD. No, direi di no. Adesso perché è il leader della minoranza del PD, quando esatto, c'è stato il cambio di segreteria con Renzi, però insomma è una proposta che sta sul tappeto. Calviolatti, per esempio Tsipras, che ha altri problemi adesso in Grecia, soprattutto sul debito, ma insomma la sinistra europea ha questa ricetta tra le tante? Come allora, proposta? A macchia di leopardo, perché è una ricetta che in passato è stata molto esplorata e poi un po' accantonata, anche un po' precipitosamente. E sta riemergendo, ma perché sta riemergendo appunto l'evidenza dell'insostenibilità di questa dinamica. E ci sono delle realtà sia politiche che sindacali, anche in paesi in cui l'occupazione è molto più equilibrata che da noi, ad esempio la Germania, in cui il Verdi, che è il maggior sindacato, il secondo maggior sindacato tedesco, il sindacato dei servizi, esplicita proprio tra i suoi obiettivi la settimana di 30 ore lavorative. In Europa recentemente ha fatto abbastanza scalpore la proposta economica di Podemos, che sarà l'altro soggetto dopo Syriza che lancia un po' la sfida all'ordine europeo, per come è definito adesso, che nel proprio programma economico per la gente ipotizza un vero e proprio piano di redistribuzione degli orari, con delle osservazioni molto interessanti. Ad esempio, e questo è quasi controintuitivo, propone di eliminare l'incentivazione al part-time, perché il part-time è in Spagna, come in Italia, un po' un ghetto in cui recludere ad esempio gran parte dell'occupazione femminile, e quindi il modello che indica non è semplicemente sosteniamo i part-time o sosteniamo i mini-job tedeschi, sosteniamo un'evoluzione complessiva verso un modello lavorativo normale che sia più corto dell'attuale full-time, ma anche più lungo del part-time, magari ultra flessibile. Quindi ci sono realtà che ne stanno parlando, ci sono discussioni pubbliche, ma faccio un altro esempio. Sì. Negli Stati Uniti Robert Reich, che era stato il ministro del lavoro con Clinton, e ha anche recentissimamente sostenuto e invitato Obama a predisporre un percorso di incentivi fiscali per la riduzione dell'orario, e lui calcola che non so quanto siano fondati i suoi calcoli, ma comunque lui lo dice nei talk show, ecco, che la perdita dell'occupazione è data solo dal 10% dalla delocalizzazione dell'economia, e per il 90% semplicemente dall'evoluzione tecnologica, dalla rivoluzione informatica e digitale, che sopprime posti e quindi sostiene la necessità anche negli Stati Uniti di avviare un percorso di questo tipo. Ecco, ma mettiamoci a questo punto, voglio fare i conti. Sì. In tasca all'imprenditore, no? Che dovrebbe diciamo portare avanti questo modello nuovo anche di riduzione dell'orario di lavoro, lavorare meno, lavorare tutti. Io ho un lavoratore, lavora 8 ore, gli pago un certo stipendio, ne prendo due che lavorano 4 ore, se devo pagargli lo stesso stipendio mi costa il doppio, come si fa? Ah, evidente, ma intanto non si tratta di dividere l'orario in due, ma di avviare un percorso su più anni che comporti una riduzione progressiva, e quindi che si passi da 40 a 39, poi a 38, poi a 37, per arrivare a quella che può essere una fascia normale, che va, non so, dalle 30 alle 35 ore. Qui i numeri possiamo darli liberamente, ecco. Poi questa evoluzione può essere accompagnata in due modi per non impattare sui costi. Uno è quello dell'incentivo, l'incentivo fiscale, l'incentivo contributivo. Invece di incentivare gli straordinari come è oggi, si incentivino le riduzioni degli orari. La seconda, complementare, la riduzione può seguire gli incrementi di produttività del lavoro. Quindi se io in un'ora lavorativa nell'arco di alcuni anni vado a migliorare, aumentare il valore della produzione del 10%, poniamo caso. Certo, lo stesso lavoratore mi può costare un po' di più, cioè lo stesso lavoro mi può costare più, ma con questo aumento della produttività in realtà mi costa di meno, perché esatto, produce di più, e quindi questo diciamo è una scommessa che vedremo. È una scommessa, se mi posso permettere. Sì, certo. Anche per le organizzazioni sindacali, le organizzazioni del lavoro. Sì. Che in questo momento vanno a declinare tutto esclusivamente sul reddito, ma è anche comprensibile, i salari hanno perso potere d'acquisto, cioè. Però anche qui, a fronte di un'evoluzione del sistema produttivo e della tecnologia che aumenta progressivamente la produttività del lavoro e sopprime posti di lavoro, perché non giocarsi almeno una quota di questi benefici tecnologici anche sul piano del tempo e non solo su quello degli orari, del salario? E su questa domanda, che è una sfida, noi ci fermiamo qua, ci salutiamo. Grazie Marco Craviolatti. Grazie mille. Grazie per essere stato con noi, autore del libro E la borsa e la vita, che affronta il tema della riduzione dell'orario di lavoro e non delle cabine, diciamo. Esatto, e, insomma, è una sfida. Siamo addentrati in un argomento un po' tecnico, no? Un po' economico, ma ci sembrava interessante affrontare questo argomento che, insomma, leggendo i giornali, parlando con la gente qua e là, ritorna. Ha anche risposto a un altro ascoltatore che sì, nel frattempo gli stavo facendo la domanda, ma aveva già risposto lui, che chiedeva se in Germania era vero o meno che ci fossero l'ipotesi, la possibilità di fare contratti di lavoro di 31 ore settimanali. Ci ha risposto Craviolatti parlando di 30 ore settimanali, sì. Dice che il maggior sindacato tedesco così sta cercando di raggiungere questo tipo d'accordo. Con le elezioni in Grecia e con Tsipras probabile vincitore, chissà che questo non diventi anche un argomento, poi una pratica della politica economica in Grecia. Siamo quasi alla chiusura, ma tweet. Facciamo un ascoltatore, sì, no, facciamo titolo ascoltatore, già dopo. Maurizio dopo. Da Torino, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me il personaggio della settimana è Roberto D'Agostino. Roberto D'Agostino, perché? Qual è la notizia legata a Roberto D'Agostino di questa settimana? Beh, sul suo blog ha scritto che Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si sarebbero messi d'accordo sulla candidatura di Anna Finocchiaro. Eccolo qua, e non era lui però, la risposta lui. Però è molto, come dire, molto sensata. Volevamo sentire dire grazie, la notizia, Maurizio. Ti ringraziamo molto. Grazie. Dico solo questo, che al rientro avremo in studio con noi Nicola Cioce, il suo disco è L'ora blu, è anche un progetto teatrale, La fortuna non esiste, un cantautore insieme a noi, dopo il giornale radio 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Starò sveglio finché avrò un sogno potente. Pescatore sarò, ma di stelle cadenti, che una stella non ha paura del buio, piuttosto di chi non ha più un desiderio. La fortuna non esiste, è solo un muscolo che batte, che insiste, è il desiderio che muove i pianeti e che gira le viti, che attira la stella. La tua buona stella, la tua buona stella. La paura verrà, che sarò in mare aperto, a me stesso dirò, non si pesca nel porto. Una stella, lo sai, non cade per niente, ha bisogno semmai di sentirsi importante. La fortuna non esiste, solo un muscolo che batte e resiste, è il desiderio che gira i pianeti e che muove la vita, che attira la stella. Stay. che attira la stella. La tua buona stella Nicola Cioce, chitarra e voce, Simone Pirovano alla chitarra, buongiorno, benvenuti qua in studio con noi. Buongiorno. Ciao. Ciao. La fortuna non esiste, questo è il brano che avete appena sentito, il brano trainante di un disco appena uscito che si chiama L'ora blu, il disco di Nicola Cioce, ma questa canzone è anche il titolo d'un progetto, concerti, incontro che si svolgono in vari luoghi e che danno voce ai resilienti, no? Perché il titolo è La fortuna non esiste, Il segreto dei resilienti. Il segreto dei resilienti. Nicola, adesso ne parleremo e sentiremo anche delle altre canzoni sicuramente. Intanto, chi sono i resilienti? Un po' l'abbiamo capito anche ascoltando il testo di questa canzone. Ok, i resilienti non sono dei marziani, sono degli esseri umani che hanno delle caratteristiche psicologiche particolari, hanno la capacità di rilanciare sempre, di subire un danno, una difficoltà e di inventarsi un modo per venirne fuori. Hanno appunto la capacità di cadere e rialzarsi. Questo insieme è leitmotiv che si può fare. Esatto, no, infatti, se posso dire una cosa, intanto sono emozionatissimo perché avere diciamo dei musicisti in studio è stupendo. E poi sono anche contento perché di solito questo è il mio unico momento, diciamo, di rientro. Quindi di solito qua facciamo sentire il nostro si può fare in musica, perché noi chiediamo ai nostri ascoltatori di farci sapere, di consigliarci una canzone da far sentire che loro si può fare in musica sui nostri account dei social network o sui nostri account personali. Però forse abbiamo trovato il cantante che è il nostro si può fare in musica, perché esattamente questa questione dei resilienti, che sono appunto, come si diceva, le persone che hanno la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, sono esattamente quello che noi cerchiamo da sempre. Quindi grazie mille. Se volete potete usarla come sigla, possiamo cambiare quella di prima. Stai cercando di non svegliarti presto la mattina, non hai capito, tu sarai qui con noi tutti i sabati. Il sabato si inizia un'oretta prima, quindi si può fare, avrai una voce stupenda. 800 24 00 24, cari ascoltatori, adesso chi abbiamo? Abbiamo un ascoltatore in linea? Sì, ce l'abbiamo. Guido dalla provincia di Modena. Dobbiamo dare poi anche un altro indizio per il gioco della settimana. Assolutamente non sì. Non ci facciamo distrarre dai personaggi resilienti. Ma io mi emoziono. Lo so, però dobbiamo darlo. Dai tu l'indizio? Diamo adesso, diamolo adesso. Adesso il nostro personaggio è una creatura televisiva. Eccolo qua. Giusto? Il primo indizio era sa chi diventerà Presidente della Repubblica, o perlomeno crede di saperlo, se vogliamo. E il secondo indizio è una creatura televisiva. 800 24 00 24. Guido dalla provincia di Modena, buongiorno. Dottor Maurizio, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno, sono l'autore del libro La conoscenza condivisa verso un nuovo modello di organizzazione aziendale. Sì. E mi sembrava opportuno, insomma, intervenire nella vostra trasmissione ascoltando l'autore del libro precedente. Sì. Perché credo che oggi come oggi uno degli aspetti importanti, fondamentali delle nostre aziende sia quello di valorizzare le persone e metterle al centro dell'ecosistema organizzativo. Ah, pensavo fosse quello di scrivere libri, era per quello che interveniva. No, io sono intervenuto per dare un contributo verso, con un'impostazione organizzativa completamente differente rispetto ai modelli organizzativi attuali tipicamente verticistici. Oggi credo che le nuove economie, se vogliono spostarsi, no, da quel baricentro che le ha comunque caratterizzati nel corso del tempo, debbano valorizzare e che le ha portate alla crisi, sì, debbano valorizzare la persona. Sì. Debbano valorizzare la persona. Quindi il concetto di si può fare credo che sia uno degli aspetti fondamentali dove le aziende del futuro, se vogliono globalizzarsi, devono mettere la persona al centro dell'ecosistema organizzativo, valorizzarle, recuperando la conoscenza tacita, che è uno degli aspetti importanti e fondamentali che permette alle aziende stesse di ricrescere nel futuro. Guido, perché dici questo? Chiudi così poi Diamo spazio anche agli altri ascoltatori, Guido, vai. Certo, il problema delle aziende, sì, perché naturalmente lei lo diceva benissimo, stanno chiudendo, sì, è perché tendono sempre a contenere i costi, di conseguenza aumentano la produttività a scapito della qualità, e questo naturalmente influenza i comportamenti negativi delle persone che devono acquistare prodotti sempre meno significativi. Va bene, Guido, quindi, il tema è complesso, eh? Se domenica mattina sono 10:15, spero che non ci sia gente che ha avuto dei tracolli a casa, perché stamattina siamo partiti così, abbiamo affrontato il libro di Craviolatti che propone come ricetta ridurre l'orario di lavoro. È chiaro che si aprono degli scenari anche così molto inquietanti, no, inquietanti, filosofici, di riflessioni importanti. Insomma, noi abbiamo portato anche un esempio, la storia di questi lavoratori della cooperativa Mobitali che stanno cercando di ripartire, storia di resistenza anche questa. Nicola Scioce qua in studio con noi, il cantautore La fortuna non esiste. Al ritorno dal traffico, Nicola, ci fai sentire magari un'altra canzone? Sì, che dici? Va sì, bene. Nel frattempo facciamo un altro ascoltatore o no? Ce la facciamo? No, allora facciamo il traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Forse ci sei quasi, ci arrivi dai quasi, sei pronto ormai. Quasi. Quasi. Arriverai tardi, tanto farai tardi, adesso ormai è tardi. Finisce poi che gli stessi buoni propositi del mattino diventano i rimpianti della sera. Finché un bel giorno ti svegli, che i tuoi sogni sono più vecchi di te. O forse... Ora io so, ora, senza però, ora, fermo non sto. Son pronto ormai, quasi. Eccoci qua, Nicola Cioce e Simone Pirovano alla chitarra, sono in studio con noi. Questo era Quasi, un altro brano dal disco L'ora blu. Siamo partiti però dall'altro brano trainante un po' di tutto questo progetto, oltre che del disco La fortuna non esiste. Nicola, La fortuna non esiste, il segreto dei resilienti. Ci hai detto, insomma, prima in qualche parola chi sono questi resilienti. Raccontaci come nasce questo progetto e come funziona, come si snoda da questi concerti incontro nei quali ogni volta c'è qualcuno che racconta una sua storia di, sì, di resilienza. Allora, nasce innanzitutto da una vicenda personale a me molto cara, che è la mia. E come tante altre persone, a un certo punto della vita ho cambiato delle cose, quindi ho lasciato il lavoro, che comunque probabilmente mi avrebbe lasciato perché lavoravo nell'editoria e, come sapete, insomma, non è un gran momento. Avevo anche un bel lavoro, facevo l'art director, e per seguire un sogno, il sogno era quello di scrivere canzoni. ho cominciato a scrivere canzoni e più canzoni scrivevo e più finivano i risparmi. E a un certo punto mi sono trovato per terra, come ho spiegato prima. E ho fatto quello che sapevo fare, ho scritto una canzone, quindi la fortuna non esiste. Sono stato ispirato nel scrivere questa canzone da un testo che si intitola appunto La fortuna non esiste, un testo di un libro di Mario Calabresi, certo. Giornalista, direttore della Stampa, che in quel libro racconta di storie americane di gente più o meno qualunque che riesce a reinventarsi, quindi perde il lavoro e se ne inventa uno nuovo. Oppure che parte da situazioni veramente complicate e riesce a raggiungere degli ottimi risultati. Non è un libro sul mito americano del successo, no, è proprio, certo, un libro sulla capacità di cambiare, di ripartire. Ripartire. E alla fine di questo libro ho detto: ma possibile che dobbiamo leggere un libro di storie americane, che non ce l'abbiamo noi in casa? Possibile che non le abbiamo, sì. E il problema è appunto è che non le raccontiamo. Prima di voi non le raccontava nessuno. Grazie. E quindi io prima di voi ho avuto l'idea di farlo, però giusto, sono arrivato tardi. Ah, ma sei venuto qua a mettere, sì, il segno a posto, sì, in realtà. Un attimino, voglio dire. No, a parte gli scherzi, è una cosa appunto di un'idea di circa 6-7 anni fa, sì. E da lì, insomma, ci è voluto tempo per fare il disco e cominciare appunto a girare l'Italia, questo è il sogno. Per scoprire queste persone, farle parlare, persone qualunque, cioè persone qualunque, persone comuni, diciamo, e renderle speciali, cioè restituire una sorta di epica alla persona comune. E ti faccio il primo esempio, il primo residente, sì, che abbiamo incontrato nel comune di Nova Milanese. Abbiamo incontrato questo lottatore libero, Vincenzo Grassi, come di no, 75 anni, che saluto perché ci sta sicuramente ascoltando ed è un vostro ascoltatore, questo non lo dico... Grandissimo! L'ho chiamato perché mi diceva che lui si alza alle 6 di mattina, non sa che fare, ascolta la radio. Fantastico! E spesso... Ah, perfetto! Ma mi sa che abbiamo trovato il prossimo ospite per settimana prossima. Vincenzo è fantastico. Quest'uomo ha vinto diversi campionati d'Italia, ha partecipato a diverse Olimpiadi, non è mai arrivato primo alle Olimpiadi, ma non ha mai mollato. Quindi, per esempio, una storia nella storia di Vincenzo è che a un certo punto lui alle Olimpiadi del 64 a Tokyo perde contro il campione giapponese e, come dice lui, meritatamente, nel senso che il giapponese è stato più bravo. La storia bella è che lui 30 anni dopo, ai campionati del mondo Master, a Roma, reincontra lo stesso giapponese e vince. E quindi si prende la sua... Ma per quanti anni si fa la lotta? Cioè, lui quanti anni aveva 30 aveva anni dopo? Aveva 53 anni, se non ricordo male. Pensavo si smettesse, sì, prima, invece no. Lui ancora oggi si allena tutte le settimane, va a correre 3 volte alla settimana e allena dei ragazzi. Quindi... La cosa bella di Vincenzo è che questa cosa arriva, te la trasmette. L'idea mia era quella di trovare queste persone e farle cantare, e farle, come dire, farle sentire agli altri. Alla fine, in modo da creare quasi un coro, un'orchestra che possa in qualche modo dare voce e forza a queste storie che invece spesso sì, ci sono, però o non vengono raccontate, esatto, o sono sotto traccia. Ma io non ho capito una cosa, come, sì, cioè, come mai è una storia, diciamo, di ripartenza in qualche modo, di un uomo che cambia, che decide di prendere un'altra strada, perché mi sembra di aver capito che è questo, cioè di usare... Dov'è il punto traumatico della storia di Vincenzo? Allora, Vincenzo non ha... La storia traumatica di uno sportivo è la fine della carriera, praticamente tutti i giorni. Perché, d'accordo, perché certo. Cioè, hai idea di cosa vuol dire prepararsi per le Olimpiadi, arrivare, no, perdere e direi tornare che non a casa ho idea. E tornare... E già fare uno sport come la lotta libera è proprio una scelta da resiliente. Non la fai, se no... E lui appunto ha sempre molta continuato. Molta fatica, molto dolore anche. Molto dolore. E pochi riconoscimenti. No, è che io, mi sembrava che in realtà il discorso che fai è anche sulla questione degli eventi traumatici. Mi interessa questa questione, sì, perché forse va anche ricordato che crisi in realtà significa cambiamento. Siccome parliamo di crisi dalla mattina alla sera e ci viene addosso continuamente questa, sì, questione della crisi, in realtà ricordarsi che crisi appunto significa cambiamento e quindi forse all'interno della crisi si può trovare invece un punto positivo. Ma pensa quindi un... dove finalmente io cambio e divento qualcos'altro. Gabardini per questo che filologo. Ti chiedevo. Interessante, no. Gabardini in veste di filologo, mi piace molto. Simone. Nicola, ci possono essere diverse cose. Allora, Vincenzo parte da Napoli, da un quartiere poverissimo, e i primi combattimenti li fa per il salame, per dirti. Certo. E quindi, come dire, c'è anche tutta la sua storia umana, una storia di resilienza. E poi continua a insegnare ai ragazzi. E lo fa appunto senza grandi riconoscimenti, perché la lotta libera non è di moda come è di moda il calcio o altre cose. E i prossimi saranno invece quelli che abbiamo già messo nel mirino, saranno, ecco, esatto. Saranno Gianfelice Facchetti, figlio, sì, di Giacinto, mio amico tra l'altro, perché compagno, abbiamo iniziato a fare teatro insieme un po' di anni fa, poi le nostre strade si sono divise. Tanto possiamo aggiungere, tu per caso hai iniziato con quelli di Grok? Sì, il nostro Maurizio Salvalaglio, che è stato uno dei primi speaker di Radio 24 dalle origini. E il mio primo maestro, peraltro, se possiamo dirla, perché anch'io a 14 anni ho iniziato a quelli di Grok. Chiudiamo la Marcord, perché se no ci intristiamo, oppure anche no. Questo per dire che cosa? Ho perso il filo completamente. Nicola Cioce, questo è il progetto. Quello, no, stavamo che avete dicendo sentito... seconda storia, sì, di Gianfelice. Dove la farete questa? Questa ancora stiamo la faremo a Milano, sì. E sarà la data di Milano, sì. E stiamo ancora definendo esattamente la data e il luogo. Fatecelo sapere, perché noi lo facciamo su Gianfelice non tanto per lo sport, ma per la sua attività di regista teatrale e di lavoro con i detenuti della casa circondariale di Monza, dove tra l'altro è abbastanza nato il progetto. Cioè, io giravo con Gianfelice a presentare il suo libro su Giacinto. E a un certo punto Gianfelice mi chiama in carcere a cantare La fortuna non esiste ai detenuti, ed è stata la volta in cui l'ho cantata più emozionante. L'epifania, in qualche modo forse. Vediamo un po' cosa è arrivato di tutto questo anche agli ascoltatori. 800 24 00 24, Tobias ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire Tobias? Cavolo, intervenire sul tema dell'orario di lavoro e sui posti di lavoro. Sì. Già avrei una notizia brutta e una positiva. Quella brutta è certamente così che quando dimezziamo a tutti l'orario di lavoro, certo i posti di lavoro non raddoppiano, perché in quel senso non abbassiamo anche la paga. Sì, questo l'abbiamo detto con Craviolatti, esatto. Poi invece dacci quella buona di notizia. Quella buona è che un esempio che è successo, ti conosco, dalla BMW in Germania da molti anni. Ecco, avevamo il sospetto che tu chiamassi con un italiano quasi perfetto, ma con un po' di accento dalla Germania, Tobias. Esattamente. È la Merkel, lei, meno, in realtà è una voce camuffata della Merkel questa. Hanno ridotto in BMW l'ora, sì, di lavoro. Vedi? E così lì lavorano quattro giorni con turni di 9 ore e guadagnano lo stesso, e l'azienda guadagna anche, perché così le fabbriche sono molto care con questi robot, impianti molto, sì, costosi, così non lavorano più per 2 turni in 5 giorni, così, ma lavorano un terzo in più, perché ogni giorno la fabbrica lavora 2 ore in più. 2 ore in più, e 2 ore in più, chiaro, 9 per 4, 36 anziché 40. Tobias, grazie Tobias, tedesco, che chiama però da Roma, e ci ha raccontato come e perché alla BMW si sta in qualche modo facendo. Sì, soprattutto senza abbassare il salario, che mi sembra la parte fondamentale, cioè lavorare un giorno in meno ma mantenere lo stesso salario. Egidio dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Sì, allora io sono più per il gioco. Il Bravo, gioco, sì, giochiamo. Giochiamo e vinciamo. Allora, forza. Secondo me potrebbe essere Massimo Gramellini. Perché? Massimo il nostro Gramellini. Personaggio della settimana, perché Gramellini? Ieri alla trasmissione di Che fuori tempo che fa, dopo aver fatto giri di indagini sulla sicurezza di chi fosse il futuro Presidente della Repubblica, sì, ha concluso che soltanto Magandi alla fine può esserlo. Ah, siamo rimasti tutti un po' siamo rimasti un po' basiti, perché Magali intanto come personaggio ce lo siamo bruciati poco fa. Comunque sì, non era Gramellini, non era neanche Gramellini il nostro personaggio. Grazie comunque Egidio. Allora ricapitoliamo, gli indizi che abbiamo dato sono che lui sa, questo personaggio, lui o lei sa chi è il prossimo presidente della Repubblica, o spera di saperlo, saperlo, ed è una creatura televisiva, e questo è molto importante. Il terzo indizio lo diamo dopo la pubblicità, Gabardini. Sì, direi sì, di sì. Dai, non facciamo aspettare troppo. Dopo la pubblicità diamo il terzo indizio, 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In cielo ho visto Parigi, che bella, mamma mia. Ho un amico a New York, lavora in pizzeria. Mollo tutto e scappo, me ne vado via. Mentalità da periferia. Le sogna la casa al mare, ne fa una malattia. Facciamo mille progetti per andare via, ma alla fine rimango sempre in zona mia. Mentalità da periferia. Un breve spunto musicale, Mentalità da periferia, per parlare di che cosa. Vi ricordate il progetto lanciato tempo fa dall'architetto, senatore a vita Renzo Piano, il rammendo delle periferie? Il progetto consisteva nel fatto che col suo stipendio di senatore a vita, Renzo Piano ha messo su una squadra di giovani architetti che stanno facendo progetti per recuperare, rammendare, come dice lui, le periferie italiane, che ne abbiamo parlato diverse volte, ne hanno molto bisogno. C'è stato un convegno in settimana nel quale si è fatto il punto su questa iniziativa, e allora noi abbiamo convocato l'architetto Mario Cucinella. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Perché ci è sembrato un momento nel quale questo progetto del rammendo delle periferie era annunciato, tra l'altro anche la presenza del ministro Lupi. Intanto è venuto il ministro? Sì, certo. Ah, ecco, perché spesso i ministri annunciano la presenza dei convegni, poi hanno altro da fare. È importante che il ministro senta quali sono, almeno dal nostro punto di vista, le idee, le vostre idee su come rammendare le periferie, anziché costruire nuovi casermoni, fare cose migliori. Che spunti sono venuti fuori? A che punto è il progetto di Renzo Piano, intanto? Ma intanto il progetto, come ha detto lei prima, è nato nel coinvolgere 6 giovani architetti e dare a loro un'opportunità intanto di lavorare con il senatore, ma di entrare... Sì, perché diciamolo, non ho detto una cosa, che Mario Cucinella era il tutor, diciamo, di questo pool in qualche modo di architetti, quindi diciamo lui stesso coinvolto in questo progetto. Ma lo chiamate il senatore, l'architetto? Ma sì, io ho lavorato con l'architetto Piano 20 anni fa, poi ci siamo più visti e poi mi ha richiamato, quindi diciamo, è stato un po' il ritorno. Ah, va bene, pensavo lo chiamaste architetto, ma invece il senatore, va bene? Vabbè, usiamo in questo contesto la voce di senatore, che giusto, è giusto, più istituzionale, no? E quindi era prima di tutto dare un'opportunità ai giovani architetti che in questo momento stanno soffrendo molto nel nostro paese, e metterli davanti a un problema che sarà poi uno dei problemi che dovranno affrontare nei prossimi anni, no? È vero che la presenza del ministro era molto importante, perché è importante dire alle istituzioni, che molto spesso sono un po' distratte su questi temi, che non dobbiamo più costruire le città nuove, non dobbiamo più costruire nulla, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e adesso bisogna mettere le mani prendendoci cura della nostra città. E dimostra una teoria, che è quella anche del rammendo, che forse dobbiamo immaginare che il lavoro di un architetto non è più quello di progettare chissà cosa, ma forse di mettersi le galosce, le scarpe, e andare in giro per la città a vedere tutto quello che non siamo riusciti a fare, no? Quindi un lavoro molto minuto, appunto, l'idea di rammendo è quello, no? C'è una cosa, c'è un buco, bisogna aggiustarlo, no? E anche una, è anche un modo per ascoltare la città. Io credo che anche al convegno poi è emerso uno dei grossi temi dell'urbanistica, è quello di non aver ascoltato la gente. Quindi noi abbiamo veramente bisogno di capire. Cioè l'autocritica degli architetti. Ma guardi, io faccio questo mestiere da tanti anni, sì, e devo dire che purtroppo non sono solo gli architetti la causa di quello che è successo. Beh, no, certamente no. Si dà spesso la colpa a loro, però è vero che non è solo colpa loro. Ed è difficile anche dopo aver costruito così tanto, dire ai nuovi, un architetto, dire ai nuovi architetti: ecco, voi adesso non costruite più niente, voi vi occupate solamente di rammendare le cose che abbiamo fatto noi. No, beh, questo non è così. Anche perché dentro all'idea di rammendo, o comunque di lavorare sulla città, molte cose sono state dimenticate. Quindi l'idea qual è? è che in una zona che adesso noi continuiamo a chiamarle periferie, ma dovremmo chiamarle la nostra città, no? Perché certo, sennò qui si fa sempre la divisione tra A e B, la classe A e la classe B. Dentro le nostre città costruite per bisogni, anche per necessità, mancano tante cose, mancano gli spazi pubblici, mancano le biblioteche, mancano le scuole d'arte, mancano, bisognerebbe portare dei luoghi di destinazione primaria come sono gli uffici pubblici, cioè noi dobbiamo reinserirci dentro questo tessuto con anche con delle nuove architetture, però non con l'idea che adesso andiamo a fare un altro quartiere fuori città. Sì. No, per costruire un'altra cosa, no? Quindi dobbiamo veramente capire meglio e devo dire che l'esperienza vissuta direttamente anche con i ragazzi, sì, per esempio noi abbiamo lavorato al Librino, cioè la cosa più sorprendente è che arriva un gruppo di giovani anche un po', come dire, anche con un buon livello di incoscienza e si siede a un tavolo con le associazioni a chiedere che succede, di che cosa avete bisogno, no? A semplici domande si scatena poi una valanga di idee, un po' di incoscienza non guasta, anzi assolutamente, ma a questo punto la curiosità è questa: il progetto che è partito appunto dall'iniziativa di Renzo Piano, sul quale a un certo punto anche il Presidente del Consiglio Renzi sembrava aver messo certo l'attenzione dicendo comunque vi terremo d'occhio, finanzieremo anche alcuni di questi progetti, a questo punto come funziona? Cioè voi fate, i ragazzi stanno facendo dei progetti che poi verranno donati alle città, diciamo, in qualche modo, oppure verranno poi finanziati da qualcuno, cioè ci sarà poi una fase operativa di tutto questo, ce l'auguriamo naturalmente. Ma questo ce l'auguriamo fortemente, anche perché l'impatto di quello che è stato detto dal senatore, le periferie e il tema su cui dobbiamo lavorare, ha scatenato un dibattito come se prima le periferie non esistessero, no? Quindi ha preso coscienza una parte della politica, una parte dei sindaci, una parte dell'opinione pubblica che è un tema prioritario per il futuro delle nostre città. Voi sapete bene, lo sanno tutti, la gran parte delle popolazioni vive nelle città, succedono le cose più belle e anche le cose più difficili, quindi portare al centro dell'attenzione la città, la periferia è diventato, come dire, in questo momento anche un'attenzione generale, no? Poi è chiaro che noi tutto non possiamo fare, non è che questo gruppo di 8 scalmanati e incoscienti può mettere a posto tutte le città, ma l'idea è quella di prima di tutto di sensibilizzare, di dire mettiamo al centro del dibattito questo tema, le periferie rappresentano un enorme parco immobiliare, un'enorme parte della città dove vivono i cittadini e speriamo che questo sia un po' come dire un'onda, no? Si comincia, noi cominciamo a parlare, cominciamo a fare degli esempi, a Catania abbiamo realizzato un piccolo collegamento tra una scuola e una palestra che pur essendo vicini sembravano lontanissime, i ragazzi tornano in palestra a fare lo sport, e lavoriamo sul verde con gli ortolani e piano piano questo sistema sta generando, come dire, interesse anche ad altri, quindi l'augurio è che nascano tante queste iniziative, ecco, che si coinvolgano più persone. Perché come diceva noi facciamo il tifo, noi facciamo il tifo per quello che possiamo, diamo spazio alle notizie, ne parliamo e siamo lì a sostenervi. Un'ultima curiosità, sì, architetto, perché questa è una polemica che c'è stata attorno a questa vicenda di Renzo Piano, mi scusi se torno ancora lì, però in effetti ha avuto la capacità, quasi senza fare interviste tra l'altro, devo dire, Renzo Piano, però di muovere un dibattito. La questione dello stipendio di senatore a vita, no, ma lui, cioè, è vero che i ragazzi, questi giovani architetti ti prendono uno stipendio ed è esattamente la quinta parte dello stipendio del senatore Renzo Piano, adesso lo conferma questo? No, adesso non so se è la quinta, ma comunque la quinta parte, perché erano 5, lui ha detto che avrebbe donato tutto più o meno a loro. Certo, ma i ragazzi sono stati supportati con una borsa di studio, uno stipendio al mese presi dal suo monumento, ma proprio perché era anche importante dare questo segnale, cioè i ragazzi pur essendo giovani li devi aiutare, quindi gli chiedi anche una mano. Io credo che la cosa bella di questa esperienza è che non è che sono stati chiamati dei ragazzi e qualcuno gli ha detto adesso voi dovete fare così. Una pacca sulla spalla, no? Non no, è questo era una stanza con un tavolo ed era un tavolo in cui si discuteva tutti insieme, okay. Quindi anche i ragazzi hanno giocato un ruolo molto importante perché i giovani hanno tante cose da dire, questo che io credo che non capiamo abbastanza, i giovani hanno molte cose da dire e in un rapporto anche con delle figure più mature, non c'è più quell'idea un po' accademica che c'è qualcuno che insegna un altro, c'è evidentemente qualcuno che suggerisce delle cose, ma poi è un dialogo, no? E questo secondo me è un aspetto anche molto importante per lo sviluppo dei progetti. Va bene, grazie Mario Cucinella, grazie, grazie. Architetto Cucinella per essere stato grazie con noi. A voi. E così abbiamo fatto il punto anche su questa cosa che ci sta particolarmente a cuore. Noi si può fare il rammendo delle periferie. Speriamo che progetti concreti sempre di più prendano piede, si diffondano e se ne possa parlare. Che è successo? Un problema di regia? È saltata la voce. Vediamo un po' prima poi di tornare a Nicola Cioce. Non so se questo tema delle periferie in qualche modo potrebbe anche rientrare. Rientra per collegarci al discorso di prima dei resilienti e dell'evento traumatico. Sì. È che il focus e l'attenzione di questo progetto non è tanto su il drammone americano all'Unbroken, ma è sulla storia straordinaria del tuo vicino di casa che tu non conosci. E quindi l'idea, per restituire un po' appunto di epicità a storie qualunque, quello che facciamo è fargli un video, una video intervista girata dagli orsi, si chiamano così questi ragazzi che vivono nei boschi assolutamente, escono dai boschi per girare l'intervista, tra l'altro molto bella, e in cui si fa parlare e si conosce la persona. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato uno scrittore, nel primo caso è Maurizio Baruffaldi, che ha scritto un testo in prima persona per raccontare la storia del primo personaggio. Quindi restituiamo le emozioni della storia e della vita di queste persone e la raccontiamo. Una scrittura vera e propria. E la raccontiamo dal vivo. Quindi chi viene vede il video, ascolta un reading dedicato. Il tutto insieme alla... Poi arrivi tu e canti. Arrivo io, canto e... E tra poco canterai ancora per noi, okay. Nicola Cioce. Voglio sentire anche un po' di ascoltatori. Aldo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, volevo ripetere il suggerimento. Io sostengo che sia il Gabibbo. Sì, voleva Gabibbo. Rispondere al personaggio della settimana. Per quale motivo il Gabibbo? Ma guardi, l'ho notato in un'intervista, non mi ricordo se è sulla vostra radio, la risposta di una persona. Un'intervista al Gabibbo sulla nostra radio è difficile, credo. Scusi, un'intervista al Gabibbo, Aldo? No. Ah, ok. La persona che ha risposto, sì? Che sosteneva... Che potesse essere il Gabibbo, Presidente della Repubblica. Esatto. Cioè, con Magalli non abbiamo toccato il fondo, ma c'era Gabibbo sotto, io non lo sapevo. Quello che ho percepito. Va bene, Aldo. Io... Però non era lui, Aldo, grazie. Facciamo giocare anche qualcun altro. Grazie comunque per aver partecipato, Il Gabibbo, Carlo. Lo sapevi tu che... No, ma soprattutto ricordiamo che nei nostri indizi il nostro personaggio sa chi diventerà presidente della Repubblica. Ed è una creatura televisiva. Da lì Aldo si è fatto, non dico ingannare, ma insomma guidare. Dobbiamo dare un terzo indizio. Facciamo prima Luca da Milano. Vai. Sì, pronto, buongiorno, sono Luca da Milano. Buongiorno. Allora, per me il personaggio era Pippo Baudo. Pippo Baudo, qual è la notizia legata a Pippo Baudo nell'ultima settimana? Perché quando l'ho sentito alla Zanzara, ospite di Cruciani e Parenzo, ha detto che se si poteva candidare Magalli, allora anche lui. Avrebbe potuto candidare. Cavolo, certo. In effetti è vero. Si va per categorie, cioè presentatori. Ti dirò che tra Magalli e Baudo, insomma, è una bella lotta, Una bella lotta. Beh, di fianco ai granatieri diciamo che ci sta meglio Baudo. Questo possiamo dirlo, magari. Che è altissimo. Non va era bene. Lui il personaggio, comunque grazie di aver chiamato. Grazie di aver chiamato, creatura televisiva Pippo Baudo lo è. Pensa se fosse la chi televisione è una creatura di Pippo Baudo, esatto. Della verità, ma comunque. Pensa sicuramente di sapere chi è il Presidente della Repubblica, che era il nostro primo indizio. Terzo indizio a questo punto, dallo tu Carlo. Ha il nome di un messia. 800 24 00 24, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono 10 anni, ma sembran 100, che andiamo insieme a passo lento. Ogni mattino, come un onore, rifaccio il letto al nostro amore. E a quell'inciampo, quanta paura, ma quel che conta è l'andatura, e quanti vado e quanti torno, la vita intera, un solo giorno, ma adesso devi farti scivolare giù in discesa senza pedalare su un cuscino grande come il mondo. Io ti copro le spalle, ti aspetto al risveglio e cerca di lasciarti andare come l'acqua che sull'acqua cade, come l'onda che non sa nuotare, lentamente sprofonda. Mi hai visto piangere come un adulto, ti ho vista urlare, spaccare tutto così come siamo, anche sbagliati ci siamo presi e ci siamo dati. Se è un giro tondo dammi la mano, se è un'altalena spingimi piano, amore vado, amore torno, la vita intera, un solo giorno, un solo giorno. Ma adesso cerca di lasciarti andare come l'acqua che sull'acqua cade, come l'onda che non sa nuotare, lentamente sprofonda. Ma prima dimmi che potrà durare, che non è credere a Babbo Natale, troppi caduti ancora sull'amore, è colpire, affondare, è battaglia navale. E non mi dire mai per sempre che noi non siamo come l'altra gente, ma dimmi solo un'altra notte ancora, dimmi dormi sereno, domani ti amo, domani ti amo, domani. Fai presto, dove sono le chiavi? Al solito posto, chiama quando arrivi. Amore vado, amore torno, la vita intera, un solo giorno, un solo giorno. E questo era Un solo giorno, Nicola Cioce, chitarra e voce, Simone Pirovano alla chitarra, un brano questo contenuto nel disco L'ora blu, tra l'altro è prodotto da Nicola Cioce in collaborazione, diciamolo, con Giuliano Dottori, che ha anche Simone Pirovano, che ha fatto la registrazione e ha suonato anche Max Lotti. Questo è il disco, il progetto, lo abbiamo detto, La fortuna non esiste. Ricordiamo le date. Esatto, chi vuole essere aggiornato, c'è un sito, una pagina Facebook, allora, mandate Piccione Viaggiatore. Come facciamo? Sui Piccioni Viaggiatori stiamo lavorando, per adesso lavoriamo con la mia pagina web che è nicolacioce.it, oppure col profilo Facebook, ancora più semplice. Infatti ci aspettavamo almeno un profilo Facebook. Il profilo c'è, sì, poi cambierà. Comunque sempre Nicola Cioce. E dici le date, dici... La prossima data certa, sicura, è a Spazio Musica Pavia il 12 marzo e la resiliente di turno è proprio la fondatrice di Spazio Musica, che è Daniela Bonanni. Perfetto. Ok, abbiamo detto anche le date. Vediamo se Giovanni da Roma è l'ultimo ascoltatore di oggi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Vediamo se ci siamo sull'ultimo indizio. Io c'ero anche prima, comunque l'ultimo mi conferma che è Nazareno Renzoni. Nazarone. Nazarone andava verso Lazzarone, diciamo. chi è però? Diciamo chi è a questo punto, allora, velocemente, dunque, perché Nazareno Renzoni è un pupazzo che è apparso giovedì al servizio pubblico. Sì, da Santoro. Con le sembianze mixate di Renzi e di Berlusconi. Esatto. Il quale ci ha fatto un profilo di tutti i candidati e li ha bocciati tutti quelli che almeno ha detto, tranne l'ultimo, però io non mi ricordo poi qual è il vincente di questi personaggi. Lo scopriremo entro la fine della settimana, però, direi. No, però lui, perfetto, lui sa, Giovanni, lui, perfetto. Lui lo sa comunque. Grazie mille, vince i biglietti e anche il prestigioso catalogo della mostra di Chagall che si tiene a Milano, Giovanni. Adesso noi siamo in chiusura, abbiamo però il momento del crowdfunding. Oggi non abbiamo moltissimo spazio. Federico, Taddia? Eccoci qua. Eccolo, come Ciao, stai? Ciao Federico. Bene, grazie. Senti, abbiamo tempo, io credo, per una segnalazione. Abbiamo parlato molto di resilienza qua in studio con Nicola Cioce. Le tue storie di crowdfunding sono proprio spesso anche questo, no? Gente che resiste e lotta insieme a noi, Fede. Assolutamente. Oggi volevo lanciarti un'iniziativa hipster che è assolutamente una cialtronata che ha animato il mondo del crowdfunding questa settimana, che è questo Tom che sta cercando 1300 sterline per uscire 13 sere diverse con 13 ragazze diverse per poter trovare la fidanzata, e spende solo 100 sterline evidentemente. Esatto. No, andrei proprio 30 secondi per lanciare sì. l'iniziativa lanciata da Palazzo Magnani a Reggio Emilia. Sì. Stanno cercando 10.000 euro, quindi una cifra anche raggiungibile. Mancano 14 giorni per poter raccogliere ed esporre tutta la produzione di Piero della Francesca, la produzione grafica e teorica di Piero della Francesca. Però mi piace perché insomma è arte, è cittadinanza attiva, è portare un valore aggiunto tutti insieme alla propria città. Eppela.com è la piattaforma dove poter donare. Piero della Francesca è il titolo del progetto e Pier Giorgio Odifreddi è alla guida di tutta questa niente proprio di meno che il dulcis in fundo. Fede, hai lasciato naturalmente tutti i contatti poi per così per rileggere e capire meglio il crowdfunding, l'iniziativa di crowdfunding che ci suggerisce Federico Taddia la domenica. Poi le trovate piano piano, ci arriviamo sui nostri social network, le postiamo. Grazie Fede, ci ritroviamo domenica Fede. Prossima buona domenica, ciao. Ti dico solo che è arrivato un SMS che dice: ma che belli questi testi, un po' di poesia la domenica mattina ci sta proprio, bravo Cioce. Mi sembrava doveroso. E quindi fratello. Domenica prossima a che ora ci troviamo qua? Molto presto. Prima direi verso le 6:15 domani. Dai, domenica prossima. Grazie a Nicola Cioce. Grazie, la fortuna non esiste. Grazie a tutti. Andrea Piano torna insieme a noi del programma, Claudio Schiattone, Emiliano Lucchetti in redazione, Peter Bescapè in regia. Noi ci troviamo sabato prossimo. Ciao a tutti, buona domenica. Buona domenica da Carlo Gabardini. Ciao.